GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Comincia con l'ennesimo colpo di scena la settimana che porta Parma-Inter e Catania-Roma, sfide decisive nell'ultima di Serie A per assegnare lo scudetto e definire le retrocesse in B. Gli emiliani hanno infatti esonerato Hector Cooper, ex tecnico interista, e affronteranno i nerazzurri guidati in panchina dall'allenatore della primavera Andrea Manzo. Una scelta voluta dal presidente del club gialloblu Ghirardi. Mi assumo la responsabilità e ho voluto dare una scossa ancora di più a questo spogliatoio, basta, perché noi ci giochiamo la nostra storia, la nostra stagione e dobbiamo purtroppo stare attenti a quello che diciamo e facciamo. In casa, Inter patron Moratti promette invece una settimana di concentrazione e silenzio. La Roma giallorossa spera intanto nell'impresa tricolore, il centrocampista della Roma, Aquilani. Quello che c'è da dire è che noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto un campionato straordinario, comunque vada, penso che questa squadra va elogiata in una maniera incredibile. Però hanno tantissime probabilità più di noi e loro vinceranno, pure io dico che vinceranno. Però se non vincono, siamo lì. Sono intenzionato a continuare per un'altra stagione. Così il capitano del Milan Paolo Maldini, che si è detto pronto a 39 anni a prolungare per un'altra annata il rapporto con i rossoneri. Per il basket entrano nel vivo i playoff con gara 2 dei quarti di finale. Ieri Milano ha battuto Montegranaro 101-73 portando la serie sull'1-1. Siena ha vinto in trasferta con la Fortitudo Bologna 72-69, ora conduce 2-0. Il presidente fortitudino Sacrati a Sky Sport. La partita credo che sia stata una bellissima partita. Grande cuore, grande voglia di vincerla, peccato che sia finita così. Abbiamo sbagliato molti tiri liberi, una partita strana, loro hanno fatto molti tiri da tre e li hanno presi tutti ed è finita così, insomma, vediamo la prossima. Stasera gara 2 per Cantù Roma e Capodorlando Avellino. E ora il Giro d'Italia. Si leccano ancora le ferite dopo la turbolenta tappa di ieri. Frattura della clavicola per Bradley McGee, brutte botte per Eros Capecchi e Riccardo Riccò. Anche per il colombiano Soler, caduto domenica ad Agrigento, nessuna frattura, solo una contusione al polso. Oggi tutti pronti a ripartire. Il Giro lascia la Sicilia, dopo 3 giorni di battaglia ritorna in continente. Quarta tappa da Pizzo Calabro a Catanzaro Lido, 183 km adattissimi ai velocisti. In casa liquida si respira aria di festa. In maglia rosa c'è sempre Franco Pellizzotti al comando per un solo secondo sull'americano Van de Velde e 7 su Danilo Di Luca, mentre Bennati ieri pomeriggio a Milazzo ha colto il suo primo successo rosa dopo le tappe conquistate al Tour e alla Vuelta. Oggi traguardo nuovamente adatto alle ruote veloci. Bennati ci ha preso gusti e ha voglia di bis. Piero Augusto Stagi, GR24, Il Sole 24 Ore, Pizzo Calabro. Prima giornata degli internazionali di tennis femminili a Roma, tra le azzurre vanno al secondo turno Francesca Schiavone e Sara Errani. Olimpiadi di Pechino sempre più vicine ed è partito già il toto portabandiera della spedizione azzurra. Dalla canoa, che nel fine settimana vivrà gli europei all'idroscalo di Milano, arrivano 2 candidature d'eccezione, come spiega a Radio 24 il presidente federale Bonfiglio. Io sono un presidente fortunato perché posso proporne 2. Se scelgono una donna c'ho già Josefa Idem che ha la sua 7ª Olimpiadi. Se il presidente e la giunta scelgono un uomo credo che Rossi abbia tutti i requisiti, quindi lascio alla giunta e al presidente Petrucci il non facile compito di individuare il portabandiera. Chiudiamo con la vela. Coppa America vicina a una svolta. Il giudice di New York ha deciso che la sfida tra multiscafi, prevista tra i detentori del titolo, gli svizzeri di Alinghi e gli statunitensi di Oracle per la 33esima Coppa America, non prenderà il via prima di marzo 2009. Decisione che suona come una vittoria per Alinghi, perché Oracle avrebbe voluto gareggiare a ottobre 2008. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con A Tempo di Sport. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.